su. Ok, io sì. Basso, basso, basso, è meglio lo sento. Siamo a qualche paese di fuori, boh. Sicuramente vai a qualche paese. I tubi per tenere i piccoli, perché i fiati e cose del genere, poi del resto è tutto plastica. Ma come sa che gli sportelli si aprono a mano, come nel 500? Resina, non è plastica, resina. Cosa? Non ho capito. Ma resina, resina. Io se un tubo con le macchine. Non è che deve farlo fare nuove, come si deve. Dice, puoi viaggiare, almeno se capote non ti ammazzi. So bisogna camminare col casco con quelle auto. Non ricordo quello, avere un casco dentro e basta. Infatti, vabbè, forse mi rimane di bianco a tassarmene. Poco me lo può fregà. Quanto, cosa? Ormai, oggi, la comanda lì è debbo. Tutti mi dicono, sono un debbo. Io già lo so. Però vuoi, ti ricchia. Ma dici, buon